Mix 24, i gialli della storia. Non riesco a immaginare la mia vita senza di lei. Ron mi ha dato una vita che non avrei mai ritenuto possibile. Nancy, with a Reagan face, you must have noticed she's always beaming. Il momento più bello è stato quando ha conosciuto Nancy. I'd simply like to tell her I wish her well, her and her fella. Quando Nancy gli era accanto, era un uomo felice. Quella tra Ronald Reagan e Nancy Davis è una straordinaria storia d'amore e di potere che passa da Hollywood e arriva fino alla Casa Bianca. Eppure al principio sembrava un'avventura come tante altre. Una giovane attrice senza troppe pretese che fa di tutto per ottenere un invito a cena dall'attore famoso. Ma da quella cena cambia tutto. Nancy e Ronald diventano una coppia inseparabile, un rapporto senza mai una crepa o un pettegolezzo, che durerà 55 anni, scalando tutti i gradini del successo fino ad arrivare alla Casa Bianca. Oggi a Mix24 raccontiamo la loro storia, una storia di cui si è scritto l'ultimo atto pochi giorni fa, il 6 marzo del 2016, quando Nancy si è spenta all'età di 94 anni, a 12 anni dalla morte del marito. Washington, è il 20 gennaio 1981, il giorno del suo insediamento. Ronald Reagan nel ruolo più importante della sua vita. Costituzionale? Sì. Poggi la mano sinistra sulla Bibbia, sollevi la mano destra e ripeta con me. Io, Ronald Reagan, giuro solennemente. Io, Ronald Reagan, giuro solennemente. Che adempirò con fedeltà all'ufficio di Presidente degli Stati Uniti. Che adempirò con fedeltà all'ufficio di Presidente degli Stati Uniti. Che Dio la aiuti. Che Dio mi aiuti. Congratulazioni. È il momento che Nancy aspetta da una vita. Suo marito è diventato l'uomo più potente del mondo. È ora di portare una ventata d'aria fresca a Washington. La coppia che arriva da Hollywood ha come motto tutto è possibile. Persino un presidente che, sebbene ultra settantenne, è un simbolo di rinnovamento e di rinascita. Ma non sono ancora passati i primi 100 giorni del suo mandato che il sogno sembra già essersi interrotto bruscamente. 30 marzo 1981. Ronald Reagan ha appena tenuto un discorso in un albergo di Washington. D'un tratto vengono esplosi dei colpi di pistola. L'attentatore viene rapidamente bloccato. Si tratta di uno psicolabile che vuole attirare l'attenzione su di sé. Sembra la scena di un film di Hollywood. Avevamo fatto dei corsi di pronto intervento sanitario. Con Mr. Pars cercammo il buco del proiettile, ma non trovammo niente. Poi però il presidente tossì e dall'angolo della bocca vedemmo uscire un rivolo di sangue, un sangue molto scuro e denso, tipico di quando una persona è stata colpita al polmone. Allora dissi a Drew, l'autista, presto, corri all'ospedale. Ancora 2 secondi e avremmo imboccato la strada per la Casa Bianca, non per l'ospedale. E il presidente sarebbe morto, se fossimo rientrati alla Casa Bianca sarebbe morto. La signora Reagan, quando le dissero che avevano sparato al presidente, fece un'espressione terribile, non sapeva ancora nulla. Andò subito in ospedale. Il presidente era stato messo in una stanzetta minuscola e l'ordine era di lasciare lavorare i medici in pace. Quando la situazione si stabilizzò, Nancy chiese di vederlo. Non capite? Ha bisogno di sapere che sono qui. Alla fine mi fecero entrare. Ronnie era sdraiato sul lettino con la maschera per l'ossigeno, per poter respirare meglio. Sollevò la testa e mi disse: tesoro, mi sono dimenticato di chinarmi. Nancy dava il meglio di sé quando Reagan era malato. Non dimentichiamo che era figlia di un medico. Perciò aveva uno spirito da infermiera. Accudiva il marito come un bambino anche quando era presidente degli Stati Uniti. Era una mamma per natura e gli ha fatto da mamma fino alla fine. Ma com'è nata questa storia d'amore così lunga e inossidabile? Lo raccontano loro stessi. Reagan e Nancy si conobbero a una cena a Hollywood. L'incontro fu abilmente orchestrato da Nancy, che aveva messo gli occhi su quello scapolo molto ambito. Era proprio il tipo d'uomo che stava cercando. A Hollywood è ormai leggendario il modo in cui Nancy si era fatta invitare a casa di Mervyn LeRoy. E fin dall'inizio fu lei a prendere l'iniziativa, perché lui era piuttosto passivo. Ancora scottato dal fallimento del suo matrimonio, da principio Reagan non presta molta attenzione a Nancy. Ha in mente altri progetti. Come capo del sindacato attori, sta cominciando ad impegnarsi in politica. È il tempo della caccia alle streghe contro artisti e intellettuali sospettati di simpatie comuniste. E Reagan non fa mistero di voler salvare Hollywood dalla minaccia rossa. La crociata per la libertà è la tua e la mia occasione per sconfiggere il comunismo. Iscriviti subito inviando la cartolina al generale Clay, Crociata per la Libertà, Empire State Building, New York. Nancy escogita un altro piano per incontrare Ronald. Dice di essere stata accusata di essere comunista e incarica un amico di fissare un incontro privato. Lo richiamai dicendogli che la signorina era a posto e che sapevamo che questa Nancy Davis aveva le carte in regola, che si era trattato di un errore. Qualche giorno dopo ricevetti una telefonata da Mervyn. Non era sufficiente. Mi disse, bisogna fare qualcosa. Le ho riferito quello che mi hai detto. Ma a lei non basta. Allora perché non la chiami e la inviti a pranzo o a cena? Pensai che dopo tutto sarebbe stato interessante conoscere una nuova aspirante diva. E alla fine la invitai. Ronnie mi disse, il mattino dopo ho un appuntamento, quindi la cena va bene, ma a patto che sia presto. E io, anch'io devo alzarmi presto, per me va benissimo. Andammo a cena e lui mi propose, che ne dici del primo spettacolo di Sophie Tucker da Ciro? E io, mi sembra un'ottima idea. Alle 3 di notte eravamo ancora a guardare Sophie Tucker da Ciro. E allora siamo andati a cena anche la sera dopo. Nancy e Ronald si sposano dopo 2 anni in cui sono stati inseparabili, il 4 marzo del 52, con una cerimonia semplice e raccolta. E da allora Nancy sarà una moglie attenta e discreta e sarà l'unico ruolo che interpreterà per tutta la vita. Lontana dal glamour di Hollywood, la famiglia Reagan conduce una vita assolutamente normale, senza il benché minimo scandalo. Con il passare del tempo, tuttavia, agenti e produttori non telefonano più. Superata abbondantemente la quarantina, Ronald è troppo vecchio per interpretare l'eroe giovane e affascinante. Hollywood ha bisogno di nuovi volti. Reagan allora decide di cambiare strada, scompare quasi del tutto dal grande schermo e si mette a disposizione del nuovo mondo, la televisione. Inizia a fare il presentatore in un nuovo programma sponsorizzato dalla General Electric. La nuova casa dei Reagan viene trasformata in un parco tecnologico, con la famiglia che accoglie gli ospiti nella cucina super accessoriata. Reagan visita anche gli stabilimenti e gli uffici della General Electric e tiene discorsi sulla filosofia dell'azienda. Ma queste apparizioni assumono via via un carattere sempre più politico. Prima degli anni 50 Reagan era un democratico. Ora invece critica le tasse troppo alte e l'invadenza sempre maggiore del governo centrale nella vita quotidiana dei cittadini americani. Tesse le lodi della libera impresa e fa campagna elettorale per i repubblicani. Quando uno dei suoi discorsi approda in televisione, Reagan torna alla ribalta nazionale. Dopo una vita da sostenitore dei democratici, ho scelto un'altra strada. Sono convinto che i problemi che abbiamo di fronte vadano al di là degli schieramenti dei partiti. I dati sono inequivocabili. La partecipazione statale è un fallimento colossale. Mentre il marito è impegnato a gettare le basi della sua nuova carriera, Nancy lavora silenziosamente dietro le quinte. In tutte le sue apparizioni pubbliche incarna il ruolo di casalinga devota e di madre che non si limita a tenere lontani dal marito i 1000 piccoli problemi di tutti i giorni, ma fa anche in modo che egli frequenti le persone giuste, quelle che possono rivelarsi utili. A soli 2 anni dal comizio televisivo che l'ha reso famoso, Reagan si candida alla carica di governatore della California. Grazie al supporto dei suoi nuovi ricchi amici, la macchina politica può mettersi in moto senza problemi. Il candidato, ancora piuttosto famoso per i suoi trascorsi ad Hollywood, inizia a girare per la provincia californiana. Soprattutto presso l'elettorato femminile, egli si scopre ancora molto popolare. La formula funziona. La popolarità di Ronald e le ambizioni di Nancy portano la coppia alla capitale della California. Come governatore dello Stato, che da solo rappresenta la quinta economia mondiale, Reagan non ha esperienza pratica né un progetto chiaro da seguire e nessuno sa cosa aspettarsi da una First Lady come Nancy. Secondo la Costituzione dello Stato della California, da tutti i nemici, stranieri e interni... Lo giuro. Il successo elettorale è una svolta, il ruolo di governatore è tutto da inventare come quello di First Lady. Nancy non si accontenta più di recitare il ruolo di moglie e di madre. La sua prima iniziativa è quella di rimodernare l'ufficio del marito, che considera insignificante. Il marito le lascia carta bianca, ma in una città come Sacramento, dove i valori della tradizione sono solidissimi, le prese di posizione di Nancy non sono viste di buon occhio e presto diviene bersaglio della stampa. Intanto, mentre nella vita dei Reagan si susseguono i party e gli incontri mondani nei campus, si fa strada la controcultura giovanile. Il governatore in campagna elettorale aveva più volte dichiarato che avrebbe fatto pulizia nelle università, considerando la protesta un attacco ai valori fondamentali dell'America. Decide allora di intervenire con la mano pesante. In seguito a scontri tra gli studenti e la polizia, chiama la Guardia Nazionale, fa occupare la città di Berkeley per 17 giorni e sospende tutti i diritti civili. I circoli conservatori cominciano a vedere in Reagan un forte leader. Ascoltiamo la testimonianza dei giornalisti Bob Colacello e Katie Martin. La preoccupazione di Nancy era l'immagine di Ronald Reagan e a questo subordinava anche la scelta delle persone da frequentare. Reagan aveva le idee ben chiare su quello che voleva fare. Voleva abbassare le tasse e ridurre la presenza dello Stato, anche se come governatore non sempre ci è riuscito. Voleva combattere il comunismo. Il comunismo era il male. Quella dell'impero del male è un'idea che ha avuto fin dagli inizi della sua carriera. I Reagan sono persone tutte particolari. Sono persone che hanno un unico grande obiettivo nella vita. Ogni mattina si alzano sapendo esattamente ciò che vogliono. Vogliono arrivare al numero 1600 di Pennsylvania Avenue, insomma alla Casa Bianca. Tutto il resto passa in secondo piano. Il primo tentativo di entrare alla Casa Bianca, Reagan lo fa nel 1976 combattendo alle primarie contro Gerald Ford, ma riporta una sonora sconfitta. Nell'80 ci riprova e questa volta le cose vanno diversamente, come racconta il giornalista Sam Donaldson. Reagan vuole essere una specie di padre per l'intera America, quindi deve stabilire delle priorità. Nel 1980 si candida di nuovo e questa volta è l'uomo giusto al momento giusto. A noi americani piacciono gli eroi come John Wayne, i divi del cinema, i personaggi. Ma nel mondo non sono solo gli americani ad essere così. Tutti amano le persone che li trascinano, figure carismatiche, dalla grande personalità. Magari sono anche tipi duri, cattivi se vogliamo. È questo che affascina. Non la persona tranquilla seduta in uno studio ovattato che firma documenti. Ronald Reagan era popolare soprattutto perché era Ronald Reagan. 4 novembre 1980. Ronald Reagan viene eletto 40° presidente degli Stati Uniti con un margine schiacciante. La prima cosa che voglio dirvi è che questo è stato, che non mi sono mai sentito così umile e intimidito in vita mia. Reagan è all'apice della sua carriera. L'America è troppo grande per dei piccoli sogni. Questo paese aveva un grande desiderio di una rinascita spirituale, diciamo pure di una crociata per la rinascita. Il popolo americano ha detto: guardiamo al futuro con sicurezza, sia dentro casa nostra sia all'estero. Diamo un'opportunità alla libertà. Non possiamo, non dobbiamo voltarci indietro e non lo faremo. Porteremo a termine il nostro lavoro. D'altronde, come potrebbe essere diversamente? Siamo americani. Ora si trova nelle condizioni di mettere in pratica su scala mondiale le convinzioni di una vita. Il suo primo obiettivo, imporre una politica intransigente nei confronti dell'Unione Sovietica. Se la storia insegna qualcosa, è che un atteggiamento arrendevole e ingenuamente bonario nei confronti del nostro avversario è una follia. Equivarrebbe a tradire il nostro passato, a dilapidare la nostra libertà. Pertanto vi esorto a prendere posizione contro coloro che vorrebbero vedere gli Stati Uniti in una condizione di inferiorità militare e morale. Ma nell'opinione di molti è nell'appartamento privato della First Lady che si prendono le decisioni più importanti. Nancy è un vero e proprio presidente ombra che pilota in tutto per tutto il marito. E anche se non gode delle simpatie degli americani, la sua posizione è assolutamente dominante, nonostante alcune stranezze come la sua passione per l'astrologia. Sentiamo ancora Katie Martin, il funzionario della Casa Bianca, Sheila Tate e Sam Donaldson. Nancy voleva essere una regina, la principessa Diana, Jackie Kennedy, erano questi i suoi modelli. Non aveva capito che quando in un paese c'è un tasso di disoccupazione così elevato e l'economia va così male, sarebbe forse più opportuno non presentarsi come una specie di Maria Antonietta. Nancy era in ansia ogni volta che il marito era via. Mentre non ha mai espresso la minima preoccupazione per quanto riguardava i propri impegni o la propria incolumità. Tuttavia sembrava trarre molto conforto dalla presenza di una persona, per la precisione un astrologo, che le diceva quali erano i giorni più favorevoli e quelli meno favorevoli. Nancy suggeriva al vice capo dello staff della Casa Bianca, Mike Deaver, di evitare certe date. No, in questi giorni è meglio di no. E Deaver obbediva, perché sapeva che Nancy Reagan aveva un potere enorme e che era meglio evitare risposte del tipo «No, Nancy, penso che questa sia una sciocchezza». Ubbidiva e organizzava gli impegni del presidente in base alle previsioni degli astrologi. Reagan intanto va avanti con le sue scelte. Il suo motto è «Nuovi armamenti per garantire la pace». Così l'America porta le spese militari a livelli mai raggiunti, l'unico modo che ritiene sia possibile per contrastare il nemico comunista. L'Unione Sovietica intanto interrompe i colloqui sul disarmo e rilancia la corsa agli armamenti, sviluppando nuovi sistemi di difesa. Ma il delicato equilibrio sta per essere sconvolto. Il 23 marzo dell'83 Reagan annuncia il programma Guerre Stellari, suscitando proteste in tutto il mondo. Da questo momento la sua immagine è quella di un presidente guerrafondaio. È il momento di cambiare rotta. Ascoltiamo la testimonianza dello scrittore Gore Vidal e poi ancora Katie Martin. Io credo che sia stata proprio Nancy a decidere che era venuto il momento di mettere fine a una guerra fredda che non portava a nulla. Secondo me Nancy ha avuto un peso maggiore di quanto le sia stato riconosciuto. Si era accorta che il marito rischiava di diventare un presidente insignificante, senza grandi risultati all'attivo. E poiché fare una guerra era impensabile, tanto valeva cercare di creare una pace. E così Reagan fece la pace. Con Nancy al fianco e di fronte a una platea accuratamente selezionata, Reagan lancia un appello per la libertà. Signor Gorbaciov, abbatta questo muro. 8 dicembre 1987. Gorbaciov e Reagan firmano il trattato per l'eliminazione delle armi nucleari a medio raggio, il primo passo per dire addio alla minaccia atomica, l'inizio della fine della guerra fredda. Il motto è Davieriai no pravieriai, fidarsi sì, ma controllando. I due presidenti non sono gli unici ad occupare le prime pagine dei giornali, anche le First Lady sono sotto i riflettori. Ma per quanto le riguarda, la guerra fredda non finirà mai. Mentre Nancy desidera chiacchierare di arredamento e famiglia, Raissa disserta sulla superiorità del socialismo. Nancy, che era molto competitiva, si rese conto che i Gorbaciov stavano conquistando la scena internazionale, che stavano diventando una coppia mediatica, E lei non avrebbe mai permesso che questo accadesse, anche perché da subito Raissa non le era piaciuta. Era uno scontro fra due personalità molto egocentriche. Nancy voleva che fosse Reagan e non Gorbaciov a passare alla storia come l'artefice della pace. Un'immagine valorosa, cucita addosso a un uomo che fino a poco prima definiva l'Unione Sovietica l'impero del male. La trasformazione fu radicale e funzionò. E funzionò perché erano entrambi degli attori. I tempi della lotta con l'Unione Sovietica sembrano finiti, ma la battaglia contro il comunismo nel mondo rimane la missione principale di Reagan. Sul finire della sua presidenza, l'America viene travolta da uno scandalo politico. I proventi della vendita illegale di armi all'Iran sono stati usati per finanziare i Contras, i guerriglieri del Nicaragua, e tutto questo all'insaputa del Congresso. Di fronte alla commissione d'inchiesta, il presidente dichiara di non ricordare nulla. Ancora Sam Donaldson. Lo scandalo Iran-Contra è stato forse il momento più buio della presidenza Reagan. Nancy sostenne il marito in tutto e per tutto. Come noto, fece licenziare il capo dello staff Don Reagan, che a suo giudizio non aveva servito a dovere presidente. Verso chiunque minacciasse politicamente Reagan, Nancy era implacabile. Nell'89, quando lasciano la Casa Bianca, i Reagan si trasferiscono in un ranch isolato nei pressi di Santa Barbara, dove Ronald occupa le giornate con lunghe passeggiate a cavallo insieme alla moglie. Nel 94 a Ronald Reagan viene diagnosticato il morbo di Alzheimer e le sue condizioni peggiorano rapidamente, come ricorda la sua guardia del corpo John Barletta. Una volta, al ritorno da un giro a cavallo, andai dalla signora Reagan e le dissi: suo marito fa errori da principiante. Va a cavallo da 50-60 anni, ma fa cose che neanche uno che monta in sella per la prima volta farebbe mai. E aggiunsi: non posso proteggerlo da se stesso. Lei, signora Reagan, dovrebbe dirgli che non deve più andare a cavallo. Mi guardò con le lacrime agli occhi e mi disse: deve dirglielo lei. Quando glielo dissi, il presidente si avvicinò, mi mise le mani sulle spalle e mi disse: d'accordo, John, capisco. Mi veniva quasi da piangere a dirgli che non poteva più fare la cosa che amava più di tutte. Andare a cavallo per lui era come respirare. Il 5 novembre 1994, con una lettera, Ronald Reagan si congeda dal popolo americano. Sto per intraprendere il viaggio che mi condurrà verso il tramonto della mia vita. So che l'America avrà sempre davanti a sé una nuova alba. Con questa lettera Reagan infrange un tabù. L'America e il mondo cominciano a parlare apertamente del morbo di Alzheimer. Forse è la peggiore malattia che esista, perché perdi ogni contatto, sei incapace di comunicare. Nel nostro caso sei incapace di condividere tutti i magnifici ricordi che abbiamo in comune. La nostra è stata una vita magnifica. Ronald Reagan muore il 5 giugno del 2004. Dopo la morte del marito, Nancy non abbandona l'attività politica, supportando la ricerca sulle cellule staminali contro cui si battevano molti repubblicani conservatori. Nancy Reagan muore il 6 marzo del 2016. In un'intervista diceva: «Ci amavamo molto. Quando dico che la mia vita è cominciata con Ronnie, beh, è vero, è così». Collaborato ai Gialli della Storia Francesco Anzalone, Daniela Ghezzi, Antonella Migliaccio, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. Le puntate si possono riascoltare in podcast sulle pagine di Mix24 sul sito www.radio24.it.